l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua con l'altra Europa come ogni settimana per raccontare l'Europa delle persone, l'Europa delle storie, delle opportunità e delle possibilità. Ogni sabato cerchiamo altri punti di vista per raccontare questa Europa. Potete seguirci anche virtualmente al nostro sito radio24.it, i nostri social Facebook e Twitter, il mio account è @ Federico Taddia, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare, e poi la nostra email altreuropa@radio24.it se volete segnalarci eventi, progetti, iniziative che poi segnaliamo nei nostri Europost-it oppure intervistiamo direttamente i protagonisti. Queste sono le istruzioni, ogni settimana un viaggio, il viaggio di oggi parte da lontano e ci porta direttamente a Cardiff. Un alto sonante inno è l'inno della Champions League, quella che era la Coppa dei Campioni, di fatto una sorta di prima lezione di geografia dell'Europa. Mi ricordo da bambino, insomma, andavi a cercare queste città europee, tiravi delle righe, misuravi le distanze, insomma l'Europa del calcio, l'Europa che si scontra, si incontra, si confronta sul campo da gioco. Questa sera la finale, una squadra italiana protagonista, la Juve, come ben sapete, tante storie legate a questa partita, a questa sfida prettamente europea. E tra queste storie c'è una praticamente affascinante, perché parte da Altamura a bordo di una 500 e vede protagonista un gruppo di amici che per scommessa hanno scelto di raggiungere Cardiff a bordo della 500, facendo proprio un viaggio nel cuore dell'Europa del calcio. Con noi Antonio Di Renzo, uno degli ideatori di questa sana, bella, divertente follia. Ciao Antonio. Buongiorno a voi, buongiorno ragazzi. Allora, siete arrivati questa sera, tutto pronto finalmente per la partita. Come mai l'idea di salire in 500 e salire fino a Cardiff? Allora, salire in 500 perché la macchina di uno dei quattro, di Sandro, e ci voleva una follia per questa finale, quindi abbiamo deciso, dopo una chiacchiera al bar, di salire e di supportare la nostra squadra. Quasi 3.000 chilometri ha retto la Fiat 500? Sì, si è tenuto a botta tranquillamente, e ora qui a Cardiff tutti la vogliono, tutti la cercano, tutti fanno le foto. Diciamo che è come un segno oltre la Juve. Certo, un piccolo trofeo che è già arrivato. Antonio, avete scelto di fare anche varie tappe in questo viaggio? La cosa nasce con un aspetto solo goliardico, però poi abbiamo deciso di farlo diventare anche un aspetto, tra virgolette, un po' sociale. Infatti abbiamo fatto Roma, dove abbiamo vinto l'ultima finale di Champions 21 anni fa. Poi abbiamo fatto Amatrice, dove abbiamo portato un po' di pane di Altamura per i ragazzi meno fortunati e per la gente meno fortunata. Poi abbiamo fatto Milano, Torino, Parigi, dove c'è stato nel recente passato la strage degli attentati, poi Londra e infine qui a Cardiff. Quindi, insomma, avete cercato di toccare qualche punto significativo sia della storia del calcio sia della storia attuale. Avete fatto anche altre soste, nel senso avete parlato con le persone, avete incontrato gente, avete fatto anche un po' i turisti. Ti dico, ogni 150 km più o meno ci siamo fermati, perché comunque la 500, essendo il raffreddamento ad aria, si doveva fermare, e dovunque ci siamo fermati, autogrill, pezzole di sosta, la gente ci fermava, ci faceva foto con noi, tutti molto entusiasti. Diciamo che vogliamo diventare un segno di questa finale, capito? Mm-hmm. Siete quattro studenti universitari, vi ha seguito anche un amico filmmaker, se ho ben capito. Allora, siamo in quattro, in 500, più in una macchina di supporto ci segue il nostro videomaker Danilo, e abbiamo portato anche con noi un meccanico, non si sa mai. per qualche guasto o qualcosa. Lo avete utilizzato fino ad ora o no? Allora, ti devo dire la verità, abbiamo avuto una piccola frattura a Milano e poi abbiamo fatto un piccolo tagliandino a Parigi, però per il resto tutto bene. Ok, insomma, quindi una bella esperienza. Antonio, che Europa avete visto? Che Europa avete respirato? Avete... Anche perché allora, è un viaggio lento quello che avete fatto, ovviamente. Sì, allora, la scena che mi rimarrà per sempre impressa è stata ad Amatrice. Che lì ad Amatrice non c'è più nulla. Cioè, non so come facciano le TV a far vedere quelle immagini, perché se tu ci vai non trovi più una casa che si regge sui suoi mattoni. Poi per il resto Parigi è stata molto bella, cioè, comunque è una città che continua a vivere nonostante abbia avuto quei problemi. E quindi insomma situazioni di desiderio di riscatto nella fatica e nella tragedia. Antonio, in bocca al lupo per questa sera, ovviamente una festa di sport, poi voi siete tifosi, quindi insomma lo sport prevede sempre un vincitore e un perdente, speriamo bene, e poi ci sarà anche un viaggio di ritorno, giusto? Sì, il viaggio di ritorno, diciamo che tutto dipenderà da come va questa finale, considerando che ad ora non abbiamo ancora i biglietti, ma ci dobbiamo adoperare per trovarli. Ah, auguri, quindi dai, mancano ancora poche ore, non mettete in palio la 500, che insomma sarebbe brutto nei suoi confronti. Ciao Antonio, grazie, buon sabato, ragazzi, e buona partita. Buona giornata. Ciao. Questa è l'altra Europa, si gioca e si scherza anche con i racconti, appunto, i protagonisti di questa bizzarra Europa che amiamo narrare. Ora ci fermiamo, un euro a posti, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Mostra l'Europa vista dai bambini. A tutti gli appassionati d'Europa. Al Punto Europa di Sondrio, presso gli uffici di Spazio Regione, è in corso la mostra itinerante Unita nella diversità, l'Europa vista dai bambini. Realizzata all'interno del progetto europeo European Union Seen by the Children, promosso da Europe Direct Lombardia e altri 12 centri Europe Direct europei. In mostra più di 90 disegni realizzati dagli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie di Croazia, Francia, Grecia, Irlanda, Regno Unito, Romania e Spagna. Nei loro lavori, giovani artisti hanno disegnato il motto dell'Unione Europea «Unita nella diversità», includendo cenni ai simboli, ai temi d'attualità e ai valori fondanti dell'Unione Europea. Informazioni e orari di visita sono sul sito europedirect.regione.lombardia.it. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. L'altra Europa. Favorire l'impegno civico e sociale dei giovani sui temi dell'ambiente. Questo è il cuore di un progetto, si chiama Progetto STEP, cominciato 2 anni fa, ora in fase di realizzazione, un progetto sostenuto dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Quadro Horizon 2020, progetto che vede 42 comuni della Locride come grandi protagonisti. Proprio questa area è una delle 4 aree pilota europee in cui si avvia la test di questa innovativa piattaforma che è centrata prevalentemente sui temi ambientali. Lunedì 29 maggio c'è stata una giornata di lavoro, un po' per fare il punto del progetto presso il comune di Siderno. Ne parliamo con Francesco Mollace, che è direttore di Civitas Solis e project manager per l'Italia. Buongiorno Francesco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi, grazie davvero per l'interesse al nostro progetto. Allora, i temi ambientali, ovviamente l'attualità ci porta, sulla cronaca, no? Questo ambiente tanto apparentemente tanto bistrattato, invece diventa fonte di economia, diventa anche fonte di reddito, quanto è ben fatto, diventa fonte di opinione, fonte di incontro. In questo caso è fonte di una sperimentazione molto particolare. Di cosa si tratta? Sì, diciamo che anche l'ambiente spesso è fonte di una cattiva qualità della vita e anche di un impoverimento del nostro, diciamo, ecosistema. Nel nostro caso è un progetto non esclusivamente ambientale, nel senso che riguarda e tocca i temi dell'ambiente, ma è un progetto che incrocia la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie con favorire forme di participation, e quindi i democracy dei giovani, su un tema scelto che è il tema ambientale. E sostanzialmente è un progetto innovativo, un progetto pilota, diciamo, come lei ha ben detto, sostenuto nel quadro del programma Horizon 2020, che ha messo insieme un consorzio complesso internazionale con partner, diciamo, che hanno sede in 8 diversi paesi europei e che incrocia delle aziende specializzate in ricerca e anche dal punto di vista, diciamo, che si occupano di innovazione tecnologica, con aziende che si occupano, diciamo, di internet, insieme a comuni e centri di ricerca, università, cioè università inglese, università greca, per favorire forme nuove di democracy. Cioè c'è una visione comune, una visione europea, una visione a cui noi tutti crediamo, che è basata sul riavvicinare i cittadini, in particolare i giovani cittadini, quelli che speriamo che nel futuro cambino davvero le prospettive di questa Europa che vive un momento difficile, come fanno i nostri radioascoltatori, e che quindi devono trovare delle nuove forme per comunicare insieme, sia a livello, diciamo, locale, nazionale, ma sia a livello transnazionale. Quindi la piattaforma che è il cuore del progetto, questa piattaforma STEP, è una piattaforma informatica, sì, che si può trovare sul sito step.green, e c'è anche un'app sia per Android che per iOS, e quindi scaricabile. Questa, diciamo, piattaforma informatica, ora siamo nell'avvio della fase test, poi dirò le aree dove si fa questa fase test, si pone proprio questo obiettivo, cioè favorire la partecipazione dei giovani cittadini, definiamoli così, ai percorsi di presa delle decisioni pubbliche, quindi attraverso meccanismi per i quali possono, insieme a decisori politici, cioè agli amministratori dei comuni dove ora stiamo testando la piattaforma, possono interagire, possono proporre, possono, insomma, esprimere opinioni, immagino. Le petizioni online, no? Uh-huh. Allo stesso tempo la piattaforma ha delle caratteristiche rapide, poi insomma possiamo approfondire, cioè una traduzione online in qualsiasi lingua mi esprimo viene tradotto in un'altra lingua europea, quindi già è un no, quindi posso anche esprimermi su un tema che riguarda un altro contesto europeo, quindi posso, diciamo, utilizzare quelle che ormai dal punto di vista informatico troviamo spesso su motore di ricerca, su Google, cioè delle traduzioni, diciamo, simultanee, che però vengono adattate a contesti legati alle forme di participation. Quindi da questo punto di vista l'obiettivo, diciamo, finale è verificare se la piattaforma può concretamente rifavorire una partecipazione dal basso dei giovani, perché tutte le ricerche europee, anche l'Eurobarometro, ci fanno presenti che i giovani oggi partecipano molto di meno ai processi di presa di decisione pubbliche, si allontanano e hanno una sfiducia rispetto a meccanismi, diciamo, di condivisione con il livello, chiamiamolo così, dei decisori politici. E questo, insomma, è per avvicinare anche i cittadini alla politica. Italia, Spagna, Grecia e Turchia sono le 4 nazioni coinvolte. Come mai proprio l'area della Locride? Noi abbiamo pensato un'area come la Locride, che è un'area, diciamo, periferica rispetto all'Europa, periferica dove anche l'aspetto della tecnologia non è così avanzato, e che quindi però allo stesso tempo poteva anche verificare se le forme di partecipazione dei giovani potessero essere favorite in questo modo, ma allo stesso tempo diciamo, creare un contesto di maggiore discussione dal punto di vista dei decisori politici sull'innovazione tecnologica, certo. Cosa che in parte sta avvenendo. Ricordiamo il sito che è www.comunilocride.it, all'interno del quale si possono trovare tutte le informazioni sul progetto STEP. Grazie Mollace, buon lavoro. Grazie a lei. Buon sabato. Europost-it. Portale per insegnanti Scientix. A tutti i docenti di materie scientifiche alla ricerca di spunti e approfondimenti. Scientix è la comunità europea che promuove la collaborazione tra insegnanti, ricercatori, istituzioni e professionisti che si occupano di discipline scientifiche. Sul portale di Scientix, gli insegnanti possono condividere nuovi approcci pedagogici, ispirarsi alle buone pratiche condivise dagli altri e partecipare a progetti europei per implementare l'insegnamento delle materie scientifiche e rilanciarne l'interesse. Oltre ai servizi online offerti dal portale, Scientix organizza anche conferenze e convegni internazionali per addetti ai lavori. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono sul sito scientix.eu. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams, and I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey. Riportare la manifattura nel cuore dell'Europa politica a Bruxelles, farlo con l'arte, con una mostra, è quello che è successo in questi giorni all'interno del Parlamento europeo, dove è stata presentata una mostra intitolata Italian Shoes, European Footprint, scarpe italiane, impronta europea. Il perché di questa iniziativa lo chiediamo ad Anna Rita Pilotti, presidente di Asso Calzaturifici. Buongiorno Pilotti. Buongiorno. Cosa ci facevano delle scarpe italiane, una mostra di scarpe italiane all'interno del Parlamento europeo? Beh, abbiamo fatto questa iniziativa naturalmente innanzitutto per mettere in mostra la nostra creatività. Ci sono tanti maestri artigiani che hanno iniziato una calzatura e quindi rivolta al passato e anche al futuro. Quindi abbiamo fatto questa mostra portando appunto pezzi storici, pezzi del passato e pezzi nuovi, quindi con nuove tecnologie, nuove idee, ma soprattutto mettere in mostra il nostro Made in Italy. Certo, racconta molto dell'Italia una mostra di scarpe. Sì, perché è un manifatturiero, è quella artigianalità che non vorremmo mai perdere. Purtroppo il fatto anche che non ci riconoscano ancora, non riusciamo ad ottenere il Made in Italy. Sappiamo tutti che il Made in Italy è un valore aggiunto per quanto riguarda le nostre calzature, per quanto riguarda il manifatturiero italiano, no? Quindi è riconosciuto in tutto il mondo il Made in Italy. Certo. Pertanto metterlo lì in mostra e dare visibilità a opere d'arte, alla fine dall'inizio della storia del XX secolo ad oggi, insomma, è stata un'opportunità per far vedere come si costruisce una scarpa, perché ci sono proprio anche i pezzi scostati uno dall'altro, e poi la realizzazione delle calzature vecchie e nuove. E questo, insomma, per sensibilizzare un po' i nostri parlamentari. Ricordiamo che la mostra è stata realizzata in collaborazione con l'associazione culturale Colosseum, assocalzaturifici.it per tutte le informazioni. E Pilotti, un'ultima domanda, come hanno reagito i politici? Hanno buttato l'occhio verso le scarpe italiane? Beh, sono venuti diversi, devo ringraziare la Bonafè, che è riuscita a farci ottenere praticamente l'ingresso dell'Europarlamento, del Parlamento europeo, pertanto la vedranno tutti in questi giorni che passerà, chi passerà di lì. Abbiamo chiesto il Medin, abbiamo chiesto il TTIP, abbiamo chiesto non il libero scambio con altri paesi, insomma abbiamo cercato di sensibilizzarli su quelli che sono i punti cruciali per il nostro settore. Grazie davvero Pilotti, buon sabato e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Adesso ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua, con l'altra Europa. Europost-it. Concorso una vignetta per l'Europa. Il futuro dell'Europa si può riassumere in un'immagine? Anche quest'anno la rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di VoxEurope.eu, indice un concorso per premiare la migliore vignetta politica pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi mesi. Le vignette più belle saranno valutate da una giuria popolare su Facebook e premiate a Ferrara in occasione del Festival di Internazionale 2017. Tutte le istruzioni per partecipare sono sul bando di concorso scaricabile dalla sezione Notizie del sito della rappresentanza in Italia della Commissione europea, ec.europa.eu. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui social network, la pubblicità digitale, le nuove app e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook, lì i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Ora portiamo un po' di scienza, un po' di Europa, un po' di stelle all'interno del nostro programma, lo facciamo con un progetto molto importante, si chiama Progetto First, finanziato con un IRC, e se ne è parlato in questi giorni un po', perché ha preso il via la fase operativa, un po' perché sono sei donne, sei ricercatrici, le protagoniste, le archeologhe delle stelle, così giornalisticamente sono state definite, e quindi insomma c'è stata particolare attenzione su questo progetto, coordinato dalla dottoressa Schneider, che è una delle tre ricercatrici appunto che ha vinto l'IRC, insieme a Edvige Pezzulli e Rosa Vagliante. Con noi c'è proprio Edvige Pezzulli. Ciao e benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie dell'invito. Tre ricercatrici in una squadra però di sei scienziate, giusto? Sì, sei donne. Sei donne. Cosa state cercando? Guarda, per rispondere alla tua domanda faccio un attimino un piccolo passo indietro. Cioè, tutto nasce dall'osservazione di quasar lontani. Che cosa sono i quasar? Sono delle galassie che ospitano al centro un buco nero enorme con una massa che può essere anche 10 miliardi di volte quella del nostro Sole. Ora, io ho detto osservati, poi ho detto buco nero e spero che qualcosa non ti torni, immagino. Sì, infatti. Cioè, come si fa a osservare un buco nero? Ecco, un buco nero effettivamente è un oggetto con una gravità così forte da trattenere qualsiasi cosa, anche la luce. Però la fortuna vuole che questi buchi neri giganti stiano divorando tutto quello che hanno intorno, e questo processo emette tantissima luce, così tanta che riusciamo a osservarli anche lontanissimi. E l'universo lontano, lontano da noi, significa anche indietro nel tempo. E quindi quello che vuol dire è che la luce che parte da queste sorgenti lontanissime ci mette del tempo ad arrivare da noi. Così succede per questi buchi neri che sono lontanissimi. Quella che vediamo è luce che parte un ventesimo ad un'età dell'universo che è un ventesimo della sua età di oggi, e quindi questi sono buchi neri che sono lontanissimi da noi, ma anche vecchissimi rispetto a noi e quindi giovanissimi rispetto alla nascita dell'universo. Si sono formati in pochissimo tempo e quindi a noi è nata la domanda: come hanno fatto? E da lì, insomma, parte il progetto. Tu, Edvige, sei dottoranda alla Sapienza, Osservatorio Astronomico INAF, sei appunto firmataria di questa ricerca. Ex regbista, leggo dalla scheda, vero? Ex regbista, anche sì, sì, qui a Roma. Aiuta essere ex regbista nel fare gioco di squadra? Sicuramente aiuta nel fare il gioco di squadra e anche nell'essere abituati a sentir sottolineati l'essere donne come qualcosa di atipico rispetto a un contesto che generalmente, o almeno storicamente, è stato affrontato da uomini. Ma il fatto di essere sei donne appunto a portare avanti questa ricerca è un caso o è voluto? Guarda, non ci siamo scelte perché donne, ci siamo scelte perché scienziate affini, anzi ci siamo accorte di essere donne solo quando abbiamo praticamente sottomesso il lavoro alla rivista. Però secondo me è molto indicativo il fatto che un gruppo tutto al femminile, cosa che dovrebbe essere un dettaglio, invece catturi l'attenzione in modo così forte. Cioè c'è ancora probabilmente necessità attuale di un percorso che porti un gruppo di sei astrofisiche a essere qualcosa che, tra mille virgolette, diventi normale e non farci neanche caso. Certo. Quasi 1 milione di euro assegnati con questo YRC. Vi ha cambiato la vita, che è spesso la domanda che faccio ai ricercatori, alle ricercatrici che partecipano? Sicuramente al nostro mini gruppo ha cambiato la vita, a alcuni ragazzi ha permesso di intraprendere un percorso di dottorato, alcuni di postdoc, in particolare il nostro gruppo è un po' più largo, noi siamo un sottogruppo che si occupa in particolare di buchi neri, però sì, ha dato volgarmente lavoro a tante persone, ha permesso anche ad alcuni di noi di protrarsi, di scadere un po' più in là, ecco. Edvige, si parla di dimensioni quasi infinite, di tempi lunghissimi, no? Già nella tua premessa ci hai introdotto in questo magico e misterioso mondo. E ci sono i tempi poi per arrivare a dei risultati? Cioè, adesso mi viene da dire i tempi umani, anche se prendila con mille virgolette, no? questa definizione, però i tempi e i finanziamenti che avete a disposizione possono essere sufficienti per raggiungere dei risultati? Beh, sicuramente questo lavoro è un primo passo per cercare di dare una risposta a un problema ancora aperto, come tanti ce ne sono nell'astrofisica. Nell'astrofisica, nella scienza in generale, il sapere, se è vero che è illimitato, e lo credo, non avrà mai fine, per cui finire è un po' una parola, un po' una contraddizione in scienza. Sicuramente sì, ci porta a poter fare dei passi in avanti. Buon lavoro, Edvige, a te e a tutto il tuo gruppo di lavoro, insomma le tue colleghe. Ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa prossimamente, anche per capire come continua questa ricerca. Ciao, buon sabato. Grazie mille, buon sabato. Ciao. Europost-it. Europeana Photography, 100 anni di fotografie da tutta Europa. Attenzione appassionati di immagine e fotografia, la piattaforma digitale europeana e l'associazione Photo Consortium hanno lanciato il progetto Europeana Photography, una raccolta online di oltre 2 milioni di fotografie storiche provenienti da più di 50 archivi, agenzie e musei di 34 paesi europei. Molte delle immagini sono utilizzabili liberamente. Tutti gli appassionati di fotografia, i docenti e gli studenti che desiderino effettuare ricerche potranno navigare nell'archivio e utilizzare le foto per i propri progetti, valorizzando contemporaneamente le possibilità di utilizzo delle fotografie vintage digitalizzate anche nel settore dell'istruzione. Per visitare il portale andate all'indirizzo europeana-photography.eu. Si chiama TNC17, è una conferenza europea sul networking che si sta tenendo a Linz, in Austria. Tra i partner c'è anche l'Unione Europea, proprio con il progetto di finanziamento Horizon 2020. Ogni anno all'interno di questa conferenza vengono assegnati degli award a coloro che hanno incoraggiato la collaborazione all'interno della comunità delle reti, dell'istruzione e della ricerca, contribuendo proprio alla crescita, no? Il concetto di networking applicato alle varie declinazioni, applicato alla quotidianità. E tra i progetti che hanno ricevuto il riconoscimento c'è anche un progetto italiano, un progetto molto particolare, si chiama Lola. Ne parliamo con il suo ideatore, che è Massimo Parovel, professore di teoria dell'armonia e analisi musicale presso il Conservatorio Tartini di Trieste. Buongiorno Parovel. Buongiorno a voi. Che cos'è o chi è Lola? Beh, Lola era un sogno che è diventato realtà. Questo già piace. È una cosa che risale a 12 anni fa, diciamo, la prima intuizione. Nel 2005, quando ho assistito assieme a dei colleghi del GAR, il GAR è il consorzio che garantisce il funzionamento e lo sviluppo della rete italiana della ricerca, rete telematica. E abbiamo assistito in diretta a un masterclass musicale tra Pisa, era la sede in cui si svolgeva questo convegno, sì, e Miami, in cui c'era una masterclass di viola. Da una parte c'era il professore, anzi una bella professoressa, e dall'altra parte c'era un'altrettanto bella allieva che suonava. E in quel momento mi sono posto alcune domande e mi sono confrontato con i colleghi e ci siamo detti se si poteva immaginare di riuscire a far sì che questi due suonassero assieme, non si limitassero a uno scambio un po' come avviene nei programmi di collegamento del telegiornale, quando uno parla, sì, da una parte e l'altro poi risponde, no? Quindi arrivare a una contemporaneità nell'esecuzione, nella performance di questi di più soggetti collocati in luoghi diversi. E il banco di prova è quello musicale, perché è il più esigente in questo senso, nel senso che ritardi anche minimi del segnale e quindi della percezione di quello che avviene dall'altra parte possono compromettere assolutamente l'esecuzione. Quindi stiamo parlando di millisecondi. La sfida è quella proprio di creare una sorta di orchestra virtuale, o meglio un'orchestra reale, però dove i musicisti sono a distanza. Esattamente, un'orchestra, un gruppo musicale, ma possiamo anche estendere ad altre manifestazioni come la danza, tutto ciò che è arte performativa, che sì, richiede un palcoscenico. E quindi ci siamo posti questo obiettivo di riprodurre, di garantire la possibilità di effettuare i concerti intesi nel senso tradizionale del termine, pur essendo avendo i loro esecutori posti a distanza e magari anche il pubblico a distanza a sua volta. E ci sono state alcune difficoltà notevoli da superare, oltre la più ovvia ma la meno semplice, che era quella di abbattere assolutamente il ritardo generato dalla rete, perché nella trasformazione da analogico a digitale del segnale e poi all'arrivo viceversa ci sono comunque dei passaggi che comportano l'inserimento di un ritardo. La stessa struttura della rete telematica, stiamo ragionando a livello di reti di paesi diversi, certo, per capirsi in una dimensione europea per esempio, la stessa struttura può comportare che invece che andare da Trieste a Londra in linea d'aria, il segnale effettui tutta una serie di zigzag e quindi di fatto impieghi molto più tempo di quello che sarebbe necessario. E quali risultati avete raggiunto? A che punto siamo? Ma siamo a un punto, devo dire, molto soddisfacente, tant'è che in questo momento al mondo ci sono quasi un centinaio di installazioni distribuite tra Europa, Stati Uniti e anche in Australia. E il risultato è soddisfacente perché noi riusciamo in questo momento ad assicurare, senza abbattimento della qualità, perché il segnale non viene compresso in nessun modo, quindi sia il segnale video, perché stiamo parlando anche di video ovviamente, non solamente della parte audio che è la più semplice, un segnale video a colori, a livello di qualità 4K che viene trasmesso al di sotto della barriera delicata, critica dei 30 millisecondi, oltre la quale i musicisti, gli artisti che interagiscono sentono di agire un po' come se avessero il freno a mano tirato. Certo. È una sensazione molto particolare che mette molto in discussione anche tutta la qualità dell'esecuzione individuale, perché si obbliga a una riflessione molto approfondita su ciò che ogni artista sta facendo e, per sé e nel suo rapporto con gli altri. E dicevo, questo lo possiamo realizzare anche a livello multipolo, quindi non più solo tra due sedi, ma tre o più sedi che interagiscono per creare uno spettacolo distribuito. Insomma, già ci siamo una bellissima immagine. Non chiedo il direttore d'orchestra, dove lo posizioniamo in tutto questo? Il direttore d'orchestra può stare dovunque, può starsene da solo nel suo salotto, può stare a dirigere un'orchestra mentre i solisti stanno da un'altra parte, oppure viceversa. Però vede, questo è nella nostra immaginazione il riprodurre qualche cosa che noi conosciamo già, una forma di spettacolo nota. E invece si può andare oltre. La sfida è proprio quella che si sta testando in questa fase, di generare un nuovo tipo di spettacolo grazie a questa tecnologia, che ovviamente è uno strumento, non è il fine. Assolutamente. Per generare anche degli effetti che nascono proprio dall'interazione spontanea degli attori, dei musicisti che sono all'opera in quel momento. Siamo curiosi, vi seguiremo per capire cosa inventerete ancora. Conservatorio.trieste.it è il sito per tutte le informazioni. Un grazie a Massimo Parovel, buon lavoro e complimenti. Grazie a voi, arrivederci. Adesso ci fermiamo, le informazioni del traffico, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. I heard them calling in the distance, so I packed my things and ran far away from all the trouble I had caused with my two hands. Alone we traveled on. Un festival del multilinguismo, della scrittura, dell'arte, un festival che diventa punto di incontro delle lingue emergenti, delle lingue minoritarie. Un festival che si tiene a Ostana, che è un paese occitano di 85 abitanti in Valle Po, ai piedi del Monviso. Dal 1 giugno fino a domani, domenica 4 giugno, si tiene infatti la nona edizione del premio Ostana, scritture in lingua madre. E ci piace raccontare questo festival perché, appunto, al di là del paese molto piccolo, molto territoriale, però le lingue emergenti, le lingue minoritarie sono parte integrante di questa Europa, che deve preservare il piccolo, deve preservare le culture, le tradizioni, deve trovare spazio e dignità appunto per tutte le sue sfumature. Di tutto questo ne parliamo con una delle collaboratrici del festival, si chiama Aurélia Lassac ed è poetessa in lingua occitana e francese. Buon sabato Aurélia, benvenuta all'Altra Europa. Buon 17. Ciao. Allora, cosa significa per l'Europa difendere le proprie lingue minori? Sì, io penso che per Europa e per l'uomo di fatto l'importanza, non soltanto per una parte geografica, perché ogni lingua è come dire, una maniera di vedere, capire il mondo, di capirsi, di capire l'altro. E questa diversità linguistica è importante perché è nostra ricchezza come uomini. E allora qui lavoriamo a difendere tutte le lingue che fanno la nostra cultura d'Europa, certo, e del mondo. D'Europa e del mondo, infatti, sono... esatto, perché non sono solo le lingue europee quelle che appunto no, si danno. No, qui sono scrittori di lingua amazigh, il cabillo anche si parla al nord del Maghreb, loro vengono di Algeria, ma si parla anche in altri paesi, e c'è una scrittrice, poeta, e anche documentarista che si chiama Josephine Bacon, che scrive in Innu. L'Innu è una lingua che si parla, una lingua indiana, algonchiana, che si parla dal Quebec a Los Angeles. Qui tante lingue ancora, il galese, il Nynorsk è una lingua che si parla in Norvegia. Allora, vedete, tutti sono qui. Certo, ma Aurelia, sono lingue legate solo al folklore o sono lingue che hanno una loro quotidianità? Nel senso, sono lingue che fanno parte solo della cultura, della tradizione, dell'arte, o sono lingue che nel giorno per giorno vengono comunque utilizzate? Sì, sì. Allora, come i premiati sono artisti che lavorano in queste lingue, sono scrittori, c'è anche un premio per la musica e un premio per il cinema, allora sono lingue che vivono ancora, se no, ma sono lingue in perillo, veramente, sono lingue che come si dice in italiano, minoritarie. Sì. Ma io il termine minorizzati mi parla perché è una questione di politica, anche di storia, anche non sono minoritaria da sempre, è una storia, una politica che fa che queste lingue non hanno adesso la piazza e non solo lingue di stati, ma... E la poesia è un'arte particolare per le lingue minoritarie, forse uno dei canali privilegiati per tenerle vive. È vero che io faccio un po' il giro del mondo con la poesia, eccetera, e vedo che per queste lingue è un po' l'arte maggiore. Non so, forse perché la poesia esplora la lingua tanto che quelli che difendono, illustrano queste lingue forse sono pensano che la poesia sarà il migliore come dire la migliore maniera di illustrare e dare un potere e un eco a queste lingue. Certo. Shambradoc.it, questo è il sito per conoscere l'intero programma, premio, al di là del premio che è un po' insomma il riconoscimento ufficiale, tanti incontri, tra le tante storie c'è una molto particolare che leggevo, che è quella di Belkacem, che è algerino di formazione scientifica, che ha iniziato quasi per gioco a doppiare in lingua kibale i cartoni animati, perché insomma le lingue minoritarie anche nei film e in questo caso anche nei cartoni animati della Disney e della Pixar, quindi una declinazione molto, molto particolare ma molto significativa. Aurelia, com'è Ostana? Deve essere un luogo magico? Magico, c'è il sole e c'è il Monviso. E sempre quando siamo qui aspettiamo di vedere il Monviso. E il presento d'Ostana, ma si amerita. e lì si utilizza la lingua occitana? Sì, sì, è una delle valli occitane d'Italia. Allora, se parliamo occitano italiano un po', ma sì, la lingua occitana è la lingua di Ostana, storicamente. E ancora qui, le persone parlano occitano molto bene, è una lingua viva. Tra l'altro anche a scuola viene utilizzata, insomma, c'è proprio... sono stato in passata a visitare alcune scuole di lingua occitana ed è veramente una bellissima realtà. La parola viva credo che sia la parola migliore per descriverla. Grazie davvero, Aurelia, buon festival a te e a tutti i collaboratori. Grazie per tutto. Ciao, buona giornata e buon sabato. Ricordiamo shambradoc.it, il sito per conoscere l'intero programma. Un grazie a voi, come sempre, per essere stati in nostra compagnia. Un grazie a tutta la squadra, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Paolo Corleone oggi alla parte tecnica. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo alle 12 con l'Altra Europa. Fatevi vivi, ci trovate l'Altra Europa @radio24.it se volete scriverci via mail oppure sui vari social. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa.